L'adorazione è la forma di preghiera più difficile da realizzare. In preghiera è abbastanza spontaneo. Chiedere, intercedere e supplicare. Meno facile è lodare e ringraziare, ma adorare è l'atteggiamento meno consueto. Si potrebbe anche obbligare qualcuno a pregare, a chiedere e intercedere per altri. Si potrebbe anche insegnare a lodare e ringraziare, ma nessuno può obbligare e insegnare ad adorare. E questo perché l'adorazione nasce solo dal profondo del nostro essere. Se ci è l'atteggiamento giusto, è possibile adorare. Se non ci è il giusto atteggiamento, nessuno sforzo può creare l'adorazione. Mentre la preghiera dell'intercessione è quella fatta a favore degli altri, la preghiera di richiesta è per i bisogni personali, la preghiera di ringraziamento è riconoscere i beni ricevuti e la lode è il riconoscimento di quello che Dio fa, la preghiera di adorazione viene suscitata solo in seguito a una presa di coscienza di quello che Dio fa e di quello che Egli è. Ecco perché la vera adorazione è rarissima nel cuore degli uomini e molto raramente viene espressa come si conviene perché sono pochi coloro. Questa non è una descrizione poetica di un vero modo di vivere, ma è una realtà per chi realizza la presenza di Dio. Una realtà che il re Davide ha espresso in questo modo. Io ho avuto del continuo il Signore davanti a me, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il cuore mio, e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne dimorerà nella speranza. Atti 2, 25 e 26. Realizzare la presenza di Dio, realizzare che è alla nostra destra, significa avere un cammino giornaliero di pace e di serenità, anche se si dovessero passare le prove più dure. Proprio perché Davide aveva coscienza che Dio era alla sua destra, diede una delle più belle testimonianze. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Salmo 23:4. Non erano solo parole. Perché Davide aveva una vita molto travagliata, ma non temeva alcun male perché Dio era con lui. Solo chi adora è consapevole della presenza di Dio. Solo chi adora centra la sua attenzione su Dio. Solo chi adora rende a Dio il culto che gli è dovuto. Poiché l'adorazione è rara, anche l'adoratore è raro. Per questo è utile considerare un momento della vita di tre uomini nel quale essi hanno espresso la propria adorazione alla divinità di Israele. Questi tre uomini sono Giacobbe, Giobbe e Mosè. Il primo adorò l'Eterno per quello che aveva fatto. Il secondo adorò l'Eterno per quello che stava facendo. Il terzo adorò l'Eterno per quello che egli era. Tre ragioni queste, che dovrebbero costituire il motivo dell'adorazione di ogni figlio di Dio. Iniziamo a considerare l'adorazione di Giacobbe. Giacobbe, o Israele come egli era chiamato, dall'Eterno stesso. Era alla fine della sua vita. Aveva vissuto ben 147 anni, ed ora era giunto il momento di essere raccolto con i suoi padri. Così narra il libro della Genesi. Quando il tempo della morte per Israele fu vicino, egli chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: «De, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, metti la tua mano sotto la mia coscia e usa con me benignità e fedeltà, di grazia. Non seppellirmi in Egitto. Ma quando mi riposerò coi miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro». Egli rispose: «Farò come tu dici». Allora Giacobbe disse: «Giuramelo». E Giuseppe glielo giurò. Quindi Israele, appoggiandosi al capo del letto, adorò. Genesi 47, 29, 31. Appoggiato alla sommità del suo bastone. Ebrei 11 e 21. Dunque, per Giacobbe era arrivato il momento di lasciare questa terra, ma prima di rendere l'ultimo respiro egli adora il Dio che lo ha accompagnato, liberato dai pericoli, dato una progenie. Vediamo quest'uomo con un cuore pieno di riconoscenza per essere stato scelto come erede delle promesse di Dio al posto di suo fratello Esaù, lo vediamo adorare perché era fuggito dall'ira di quest'ultimo e si era riconciliato con lui. Lo vediamo adorare il suo Dio perché era partito solo ed ora aveva una progenie numerosissima, con nipoti e pronipoti. A questo punto, dopo che suo figlio Giuseppe gli promette di seppellirlo nella terra promessa dall'Eterno, il suo Dio, Giacobbe continua ad adorare. Che bello vedere un uomo che esce dalla scena di questo mondo con un cuore che adora, Aveva grandi beni e una numerosa progenie, ma tutto questo non costituisce ragione di nostalgia, di dolore. Adora per quello che l'Eterno Dio aveva fatto nella sua vita, per il cammino che aveva intrapreso con lui. Non è possibile adorare Dio negli ultimi attimi della propria esistenza se non si è riconosciuta la sua mano durante la vita. Non è possibile! Adorare al momento della morte dovrebbe essere l'esperienza di chi confessa Cristo quale Signore, Salvatore e Datore della vita. La persona di Giobbe non è completamente sconosciuta ai più. Si sa che Giobbe fu un uomo paziente, ma non tutti sanno che fu un adoratore di Dio nel momento più tragico della sua vita. Un giorno avvenne che mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse da Giobbe un messaggero a dirgli: «I buoi stavano arando e le asine pascolavano nelle vicinanze, quando i Sabei sono piombati loro addosso e li hanno portati via, li hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo». Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse: «Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha investito pecore e servi e li ha divorati».